8. Ascolta e controlla. 1. A che ora puoi venire a cena? Posso venire alle 8. 2. A che ora volete partire? Noi vogliamo partire alle 3. 3. Quando vogliono andare via? Vogliono andare via domani. 4. A che ora possono telefonare? Oggi loro non possono telefonare. 5. Quando può arrivare? Può arrivare dopodomani. 6. A che ora possono finire la traduzione? Possono finire stasera tardi.